appena smesso di piovere. Oddio, c'è troppa umidità, cartelli di pubblicità, ingenue nudità che sognano un posto in quel cielo per brillare quando lo sfondo è tutto nero. Si deve essere agili, è solo quando piove che capiamo quanto siamo fragili. Sembriamo abili, ma siamo chiusi in cupole, e per offuscarci bastano due nuvole. Ugole in fiamme per le urla, abbiamo sogni in polvere chiusi in un'urna. Siamo aggrappati ad un fuoco che dilania, e diamo tanto sbattimento solo per un'emicrania. Qua il tempo stringe, c'è ancora chi medita, perché dà troppo a chi forse non lo merita. Col sapore di nicotina mi perdo in un'opaca domenica mattina. Oggi è domenica, la pioggia che scende mi bagnerà. Di piovere, oddio fa troppo freddo qua, il sole lo si tiene stretto perché sparirà la ribalta con i messaggi che invii, ma batti gli occhi ed è già tempo di arti. Sbagli si pagano con una cicatrice, dubbi e insicurezze fanno da matrice. Spesso abbiamo paura di bruciarci, o abbiamo paura addirittura di pensarci. A testa alta distinti tra altre anime, diamo calore ma ci rimangono le lacrime, con il sogno di un momento più intenso e di urlare al cielo il nostro dissenso. Abbiamo voglia di poterci dimostrare, fino a che punto riusciamo a farci del male, fino a quali livelli possiamo sanguinare, per poi esplodere come una bomba nucleare. Ma oggi è domenica, la pioggia che scende mi bagnerà. Un sole mi asciugherà.